Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Pronti a intervenire di nuovo? Così il Presidente del Consiglio nell'informativa alla Camera sull'emergenza Covid. La seconda ondata preoccupa, dice Conte, ma l'Italia è diversa rispetto a marzo. Da oggi coprifuoco in Lombardia e Campania, da domani anche in Lazio. Il sindaco di Milano, portavoce delle critiche sulla scuola, siamo contrari alle superiori solo a distanza. Via intanto al concorso straordinario per i docenti, prove da oggi al 16 novembre, ma per i sindacati è una follia. Calcio, stasera italiane di Europa League in campo, alle 18.55 Napoli e Roma, alle 21 tocca al Milan. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Dunque, l'informativa di Conte alla Camera sull'emergenza Covid, siamo pronti a intervenire nuovamente se necessario, ha detto il Presidente del Consiglio. L'Italia oggi è in una situazione ben diversa rispetto a quella del mese di marzo, ha voluto rassicurare, anche se ha aggiunto la situazione che si sta rivelando è molto critica. Partiamo da qua. Dobbiamo adoperarci rimanendo vigili, prudenti, pronti a intervenire nuovamente se necessario. Seppur ben diversa da quella di marzo, la situazione attuale è molto critica e il governo è pronto a intervenire ancora se necessario. Il Premier Conte si presenta alla Camera, un centinaio di deputati presenti per illustrare le misure dell'ultimo DPCM varato domenica con le norme anticontagio. Consapevole, dice, degli ulteriori sacrifici richiesti ai cittadini, ma fiducioso che la comunità saprà esprimere anche questa volta la forza necessaria per superare la difficile sfida. Siamo ancora dentro la pandemia, il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l'attenzione altissima. Se saremo disposti ad affrontare questi piccoli sacrifici, domani riusciremo ad evitare interventi più rigorosi e quindi più penalizzanti. Alle regioni il Premier chiede collaborazione per preservare i caratteri di omogeneità e di coerenza degli interventi di emergenza. Sulla scuola rassicura, una priorità deve restare aperta, rinnova l'appello alla responsabilità individuale ad evitare attività superfluo e poi sul fronte economico spiega che i contraccolpi della crisi sono ancora forti, ma nella manovra ci sono pilastri necessari per la crescita. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Oltre 15.000 i nuovi casi registrati ieri, con oltre 170.000 tamponi effettuati. Salgono ancora ricoveri e terapie intensive e dopo il Piemonte, la Campania e la Lombardia si muovono anche altre regioni con misure che vanno dal coprifuoco alla didattica a distanza per le scuole superiori. Sentiamo. Le regioni adottano misure stringenti anticontagio, dalla didattica a distanza fino al coprifuoco che scatta con tempistiche diverse in Lombardia, Lazio e Campania, con il ritorno dell'autocertificazione per spostamenti dovuti a motivi di lavoro, urgenza e salute. In Lombardia la serrata è in vigore già da oggi dalle 23 alle 5 ed è prevista la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana. Il Lazio prevede il blocco della circolazione dalle 24 alle 5 a partire da domani e a Roma dalle 21 luoghi della Movida perimetrati, da Campo dei Fiori a Via del Pigneto, da Piazza Madonna dei Monti a Piazza Trilussa a Trastevere. Contro le code infinite per i tamponi, il Lazio apre inoltre alle strutture private, in grado di effettuare almeno 5.000 test molecolari al giorno. In Campania, da oggi a mezzanotte, scatta il divieto di spostarsi tra province e dalle 23 di domani sarà cinesche giù per ristoranti, bar e pub. E dalla mezzanotte alle 5 del mattino stop alla mobilità. Anna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima giornata di concorso della scuola, dalle 8 di stamattina sono iniziate le procedure per la sessione straordinaria per selezionare i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, riservato agli insegnanti che hanno già almeno 36 mesi di servizio. 32.000 sono i posti disponibili, 64.563 gli iscritti. Le prove, nel rispetto delle norme anti-Covid, andranno avanti fino al 16 novembre. E a proposito di scuola, poco fa il ministro dell'istruzione Azzolina ha scritto una lettera al presidente della regione Lombardia Fontana, che ha deciso di fare didattica a distanza sempre per le scuole superiori. Chiedo, dice Azzolina, di garantire pienamente il diritto all'istruzione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Ad intervenire a proposito di questa decisione della Lombardia stamattina era stato anche il sindaco di Milano. Sara, sentiamo. ANCI Lombardia e i sindaci dei 12 comuni capoluogo hanno chiesto un incontro urgente al presidente della regione Fontana per avere chiarimenti sulla scelta della didattica a distanza al 100% a partire da lunedì fino al 13 novembre per tutti gli istituti superiori lombardi. Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la scuola deve essere l'ultima a chiudere. Critica anche la posizione dei dirigenti scolastici, Giovanna Mezzatesta, preside del liceo scientifico Bottoni di Milano. Eravamo convinti che fosse un servizio essenziale la scuola, abbiamo scoperto che è il primo servizio da tagliare. La cosa più tragica è vedere le facce degli alunni, che naturalmente qualcuno penserà che sono felici, che non sono felici affatto. Non credevamo di dover essere chiusi perché i mezzi pubblici non ci sono. Per Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, si tratta di una scelta incostituzionale. Perché abbiamo un'autonomia scolastica, peraltro ricordo tutelata dalla Costituzione. La domanda che io pongo e che purtroppo rimane senza risposta è che cosa ha fatto il sistema di trasporti locali. I colleghi hanno lavorato tantissimo, hanno sacrificato le ferie per consentire ai ragazzi di tornare in presenza. Invece registro che sul fronte dei trasporti locali non si è acquistato nemmeno un autobus. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un dato molto importante che riguarda sempre l'epidemia di Covid e che sta emergendo in questi giorni, in queste ore, riguarda il fatto di garantire le cure anche agli altri pazienti. A differenza della prima ondata, dove ci si era concentrati soprattutto sulle emergenze Covid negli ospedali, adesso si sta cercando proprio di garantire anche gli altri malati. Questo però inevitabilmente finisce fatalmente per aggravare il carico di lavoro degli ospedali. Laura Bettini ha raggiunto Annalisa Mandorino, vice segretario generale di Cittadinanza Attiva, che ha appena monitorato in un suo rapporto gli effetti del passato lockdown sulle cure dei malati e dei pazienti cronici. Più di 2 pazienti su 5 sono rimasti senza visite, esami o interventi cancellati, non hanno avuto facilità a restare in contatto con gli specialisti, non avevano a disposizione i dispositivi di protezione individuale. Dall'altra parte però il quadro che ci è stato restituito è quello di una risposta eccezionale delle associazioni in termini proprio di attivazione diretta per fare attività che permettessero loro di restare in contatto, per organizzare video lezioni di attività motoria, che nel caso delle persone con cronicità è un problema particolarmente rilevante, per attivare servizi di assistenza legale e lavorativa, per attivare addirittura servizi di teleconsulenza specialistica. Ma oltre a quanto hanno lavorato le associazioni, che cosa avete scoperto? L'innovazione, la territorializzazione delle cure e la domiciliarizzazione delle cure sono gli assi sui quali bisogna muoversi anche per il futuro, anche facendo cose semplici. La ricetta dematerializzata, che sembrava una cosa difficilissima, si è attivata e funziona perfettamente. E adesso facciamo il punto sull'andamento dell'epidemia anche a livello globale. Preoccupa la crescita dei casi in Germania. Il coronavirus prosegue la sua avanzata in Europa, 5 milioni i casi totali, con sempre più paesi costretti a imporre lockdown e restrizioni. Mentre anche la Francia, dopo la Spagna, supera il milione di casi, esplodono i nuovi contagi in Germania oltre la soglia dei 10.000 al giorno. Madrid e la sua regione, le più colpite con quasi un terzo dei casi totali, valutano il coprifuoco. La Francia, oltre 26.000 nuovi casi, 166 decessi, pensa di estendere ad altri dipartimenti l'allerta massima. È in parziale lockdown fino al 3 novembre la Repubblica Ceca, primo paese in Europa per incidenza, quasi 1.000 casi ogni 100.000 abitanti, seguita da Belgio, Olanda e Francia. Nuovo record anche in Slovenia, dove preoccupa la diffusione del virus negli ospedali. Situazione sanitaria al limite in alcune zone dell'Argentina, quinto paese al mondo per contagi dopo Stati Uniti, India, Brasile e Russia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Pagina economica, al termine di una nottata di confronto si è concluso con un nulla di fatto il tavolo con i sindacati e il governo sul lavoro, dalla proroga della cassa integrazione al blocco dei licenziamenti. Sentiamo. Non c'è accordo tra governo e sindacati sulla proroga di cassa integrazione e blocco dei licenziamenti per la crisi Covid. A nulla è servito infatti il confronto tra i ministri del lavoro e dell'economia, Nunzia Catalfo, Roberto Gualtieri e i vertici di CGIL, CISL e UIL. Confronto iniziato ieri sera e andato avanti fino a notte inoltrata. Le posizioni sono molto distanti e la proposta del governo è insufficiente, dicono i sindacati. CGIL, CISL e UIL chiedono che il blocco dei licenziamenti vada di pari passo con la proroga della cassa integrazione e arrivi fino alla fine dello stato di emergenza. L'incontro a vuoto con i ministri ha spinto i sindacati a chiedere al presidente del Consiglio Giuseppe Conte la convocazione di un tavolo sul lavoro a Palazzo Chigi. Il governo, assicura Conte, rifinanzierà con 5 miliardi la cassa integrazione perché, argomenta, i contraccolpi della crisi sono ancora forti. Dagli ultimi dati dell'osservatorio del precariato INPS emerge che nei primi 7 mesi dell'anno l'attivazione dei contratti ha segnato un calo del 38%. A luglio inoltre i posti di lavoro persi si sono attestati a 780.000 e i consulenti del lavoro lanciano l'allarme. Il 2020, dicono, rischia di chiudersi con 1 milione di posti di lavoro in meno nelle piccole e medie imprese. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Andiamo alla festa del cinema di Roma, dove è stato presentato Maledetta Primavera, film autobiografico, il primo film di finzione di Elisa Amoruso. Sentiamola al microfono di Marta Cagnola. Spesso, diciamo, ai registi esordienti, o quantomeno all'inizio, ti viene chiesto, no, di fare un film che riesca a raccontare qualcosa di tuo, per avere una voce originale, una voce unica. Però essendo la storia di una ragazzina e di una famiglia, la speranza è che possa parlare a tante persone ed essere più universale possibile. Volevo raccontare le difficoltà di una ragazza che si trova a diventare donna all'improvviso, che scopre di avere un desiderio verso un'altra ragazza e non verso un ragazzo, che si scopre dentro una nuova società e che inizia per la prima volta ad avere un vero conflitto con i suoi genitori, come tutti gli adolescenti, no, si trovano ad avere, perché in fondo fa parte della vita anche quel caos. Sport calcio, dopo la vittoria dell'Atalanta ieri sera e il pareggio casalingo dell'Inter in Champions, stasera tocca alle italiane dell'Europa League. Alle 18.55 trasferte per la Roma contro lo Young Boys, il Napoli sul campo degli olandesi della Z, alle 21 il Milan se la vede con il Celtic. Ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno, dopo la sintesi della giornata. Torniamo tra poco, dopo la pubblicità, parleremo della situazione negli ospedali milanesi con il direttore del reparto di malattie infettive del Policlinico, Andrea Gori. 349-238-6666 per i vostri messaggi. A tra poco. Effetto Giorno. Ecco le notizie di oggi. Pronti a intervenire di nuovo? Così il Presidente del Consiglio nell'informativa alla Camera sull'emergenza Covid e la seconda ondata preoccupa. Da oggi coprifuoco in Lombardia e Campania, da domani anche in Lazio. Didattica solo a distanza alle superiori, il ministro Azzolina scrive a Fontana in Lombardia garantire il diritto all'istruzione. Calcio, stasera italiana ed Europa League in campo, alle 18.55 Napoli e Roma, alle 21 tocca al Milan. Tredici e 16 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Parliamo, come anticipato, della situazione del contagio dell'epidemia di coronavirus in Lombardia, in Milano e a Milano in particolare. Allora, vediamo di pesare bene anche le parole. Oggi Conte ha detto che la situazione si sta rivelando molto critica. Poi ha detto l'Italia non è più quella della prima ondata di marzo, siamo più organizzati. E naturalmente è l'auspicio di tutti. Però, tornando alla Lombardia e a Milano, ne vogliamo parlare con Andrea Gori, direttore di malattie infettive dell'ospedale Policlinico di Milano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, do solo un paio di numeri giusto per inquadrare quello di cui stiamo parlando. Allora, la regione ha raggiunto un 24% di occupazione dei posti negli ospedali, con un livello di guardia che è fissato per tutti al 40%, quindi siamo sotto. Per le terapie intensive la saturazione è arrivata al 13%, parlo della Lombardia, il livello di guardia è un po' più basso, il 30%, numeri non diversi da quelli di altre regioni, se non fosse Gori per la tendenza che si è messa in atto in Lombardia, in particolare a Milano, dove diversamente da altre province più toccate dalla prima ondata, adesso sembra essere proprio il cuore del contagio. La prima cosa che le voglio chiedere, Gori, è questa: come possiamo inquadrare questi nuovi casi per quanto riguarda l'età, l'origine del contagio, la carica virale, i casi che state registrando proprio in questi giorni, in queste ore, per esempio al Policlinico? La ringrazio. Il problema, l'ha toccato, il problema è che in questo momento l'epicentro dell'epidemia è Milano, diversamente da altre zone della provincia della Lombardia. E questo desta ovviamente, come può pensare, questa molta preoccupazione, perché Milano ha tutte le caratteristiche della metropoli e come tale caratteristiche difficili da controllare rispetto a città più piccole. Milano è una città da 1,5 milioni di persone, in cui se l'epidemia dovesse svilupparsi in maniera molto importante, come già fatto in altre regioni a febbraio-marzo, sarebbe veramente estremamente difficile da controllare. Quindi dobbiamo assolutamente fare qualche cosa perché non si arrivi in una situazione nella quale si sviluppi un nuovo picco. Ecco, dobbiamo gestire la situazione in modo tale che in qualche modo, anche se vi è un aumento dei numeri dei casi, il numero dei casi aumenti in maniera progressiva, sì, trasformando un andamento dell'epidemia in un andamento di tipo endemico, ma non epidemico, cioè evitare assolutamente che ci sia un picco di infezioni, che sarebbe a questo punto veramente molto difficile da gestire. Senta, professor Gori, la questione di come gli ospedali reagiscono e di come si può gestire questa epidemia, come stava dicendo lei, dipende credo anche dalla durata dei ricoveri, che nella prima ondata erano stati spesso molto molto lunghi, forse in questa seconda fase si riesce a gestire meglio dal punto di vista ospedaliero, medico, gli ospedali si sono riorganizzati, questo lo sappiamo. La domanda che le faccio è anche la capacità di reagire alle terapie da parte dei pazienti, no? Sta cambiando, sta migliorando da questo punto di vista? No, qui va sfatata questa affermazione. I pazienti sono esattamente gli stessi pazienti della prima ondata. Ecco, c'è un problema con la linea. Con il professor Gori vediamo se riusciamo a recuperarlo. Sembra proprio che sia caduta così, forse anche per un così colpo improprio al telefono, non so se sta usando uno smartphone o una linea fissa. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperarlo. Quello che ci stava dicendo è che i pazienti sono uguali a quelli di adesso, a quelli che c'erano prima. Forse il riferimento di questa frase di Gori, che ricordo è il direttore di malattie infettive del Policlinico di Milano, fa riferimento a quello che ha detto in un'altra intervista un epidemiologo e anche altri epidemiologi, che è stato titolato con la carica virale adesso è più alta che in passato. Forse il riferimento era questo, ma abbiamo recuperato Gori. Sì, eccolo qua. Gori, si è interrotta la linea mentre lei stava rispondendo alla domanda che le rifaccio sulla capacità di reagire alle terapie che non sono terapie dirette per il Covid, ma quello che si sta usando adesso negli ospedali, insomma la capacità di aver riorganizzato gli ospedali sta dando, come dire, risultati anche per quanto riguarda la cura dei pazienti. Allora, come dicevo, i pazienti sono assolutamente gli stessi pazienti della prima ondata, con le stesse caratteristiche, gli stessi fattori di rischio. Sicuramente c'è stato un ampliamento della conoscenza in questo periodo, per cui le terapie, e lei dice bene che non sono dirette, perché non ne abbiamo dirette contro il virus, sono comunque terapie in cui abbiamo imparato ad utilizzarle in maniera più corretta, per cui sicuramente agiamo in maniera più precoce, sì, nel trattamento di questi pazienti, e speriamo che l'outcome di questi pazienti sia ovviamente migliore. Abbiamo ovviamente dei dati che ci dicono questo in termini proprio di efficacia delle cure. Ecco, un'altra cosa che voglio toccare con lei al volo, professor Gori, se possibile, è questa. Questo per quanto riguarda, lei ci sta parlando di come negli ospedali si riesce a curare le persone malate di Covid. C'è però una parte che sembra un pochino più scoperta ancora una volta, ed è quella della prima risposta. Leggiamo per esempio che ancora i medici di base non hanno gli strumenti, non ci sono le USCA che dovrebbero uscire per visitare le persone a casa, non ci sono protocolli chiari. Le chiedo, secondo lei è sufficientemente organizzata questa prima risposta, oppure si rischia, come abbiamo letto, che i medici di base mandino le persone, magari anche lievemente infettate, malate in modo poco grave, in ospedale, aggravando il carico in ospedale, poi vengono rimandati a casa, non vengono curati come si deve? Guardi, quello che stiamo osservando soprattutto negli ultimi 2-3 giorni è l'arrivo in ospedale di persone con una marcata insufficienza respiratoria, per cui direi che ormai le persone che sviluppano sintomi lievi vengono gestite a domicilio, comunque anche sanno di non dover venire in ospedale. E devo dire anche così, le persone che hanno una sintomatologia lieve tendono a non voler venire in ospedale. Certo. Quello che noi vediamo sono pazienti che sviluppano un'insufficienza respiratoria che richiede ossigenoterapia, per cui sono pazienti che necessitano di un'ospedalizzazione. Un'ultima cosa, professor Gori, davvero flash, poi la lasciamo, non le rubiamo altro tempo. Il fatto che Milano abbia, come dire, tanti casi adesso è una notizia negativa, ma al contrario, nelle province come Brescia, Bergamo, Cremona, dove sembra che ci siano meno contagi, può essere letto come una sorta di immunità che si è creata in quelle zone, per cui adesso sono un pochino più a riparo? Allora, non si può parlare assolutamente di immunità di gregge. L'immunità di gregge la si ottiene quando si superano i livelli di prevalenza dell'infezione nella popolazione generale intorno ai 65-70%. Nelle province di Bergamo e Brescia arriviamo all'incirca al 40% nelle zone più colpite dall'epidemia. Per cui è presto, direi, per poter trarre delle conclusioni. Sicuramente il serbatoio di persone suscettibili è ridotto rispetto a Milano. Milano aveva, dopo la prima ondata di marzo, una prevalenza intorno al 5-8% della popolazione generale, che vuol dire che c'è il 90% della popolazione generale di Milano che è ancora suscettibile. Grazie ad Andrea Gori, direttore di malattie infettive del Policlinico di Milano, grazie per essere stato con noi. Allora, adesso ci occupiamo dell'ultimo faccia a faccia, ce lo racconta Daniele Biacchessi, che ci sarà stasera tra Donald Trump e Joe Biden in vista del voto del 3 novembre. Gli americani si apprestano ad assistere all'ultima sfida diretta di stasera tra Donald Trump e Joe Biden, prima della tornata elettorale presidenziale del 3 novembre, in mezzo alla devastante emergenza sanitaria che pone gli Stati Uniti ancora in cima alla classifica dei paesi maggiormente colpiti da Covid-19 e al termine della peggiore campagna elettorale della storia americana, costellata da accuse e controaccuse gravi, schermaglie giudiziarie, allarmi come quello lanciato in queste ore da FBI, secondo cui Russia e Iran sarebbero in possesso di informazioni sulle liste elettorali in grado di influenzare le presidenziali americane. Mai si era visto un ex presidente americano come Obama attaccare il presidente in carica Trump, come nel comizio della scorsa notte a Filadelfia, e mai un presidente in carica aveva inferto colpi bassissimi, anche privati, al suo sfidante. L'orientamento sarà con ogni probabilità condizionato non tanto da dinamiche esterne, bensì dalla gestione dell'emergenza sanitaria di cui Trump è ampiamente deficitario e dalla capacità di rappresentare sul piano politico milioni di persone appartenenti alle minoranze, in primis afroamericani, ispanici, specie dopo le grandi manifestazioni di Black Lives Matter in seguito alla morte di George Floyd. Altri temi, pur fondamentali e solitamente primari nelle presidenziali, sono stati nei fatti messi da parte sul piano mediatico. Adesso parliamo del caso della disputa al confine tra Italia e Francia sul Monte Bianco, una vecchia storia che però ritorna proprio in queste ore, tanto che il ministro degli esteri Di Maio ha trasmesso tramite l'ambasciata italiana a Parigi alle autorità francesi il disappunto per una serie di misure di protezione del sito naturale del Monte Bianco adottate dalla prefettura dell'Alta Savoia, che hanno investito anche territori sotto sovranità italiana. Questo caso è stato sollevato dal capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, l'ho già detto, insomma, è una vecchia disputa, addirittura che risale al secolo scorso, tra Italia e Francia. Perché lei l'ha, in qualche modo, in questi giorni, l'ha riaperta tanto da spingere Di Maio effettivamente a intervenire con le autorità francesi? Perché di vecchio c'è solo il tentativo della Francia di appropriarsi di un pezzo di Italia. Perché l'unico trattato internazionale che riconosce i confini è quello del 1861, che garantisce all'Italia il pezzo di terra di cui stiamo parlando, cioè la vetta del Monte Bianco su cui c'è il rifugio Torino. E la Francia negli anni ha fatto più tentativi di appropriarsi di questo territorio, ma ovviamente ha sempre trovato la diplomazia e i governi italiani particolarmente ostile a questa scelta. Lo scorso anno accade che nel mese di giugno i comuni di Chamonix e di Saint-Gervais normano sul territorio italiano, vincolando delle aree e proibendo alcune attività in area italiana, ovviamente violando quelle che sono le regole del parapendio. Però in quel caso non solo il parapendio, sì. Ci sono anche delle normative che riguardano le installazioni, okay. alcuni vincoli sui passaggi, sulle attrezzature, che danneggiano in realtà l'economia italiana, per esempio in quell'area, sì. Per quanto riguarda il comune di Courmayeur, le guide alpine, minano anche la sicurezza, perché quando c'è l'indeterminatezza dei confini c'è anche l'indeterminatezza delle competenze. Casualmente questi comuni ritornano a intervenire sul suolo italiano proprio quando viene realizzata un'opera che è lo Skyway dal comune di Courmayeur, che porta in vetta, che fa concorrenza ai loro impianti, e i francesi, quando si toccano i loro interessi, evidentemente a tutti i livelli intervengono in maniera brutale. Devo dire, io ho segnalato questa cosa il 20 di agosto del 2019, sì, e c'è stato l'immobilismo completo da parte, okay, del Ministero degli Esteri, che si è mosso adesso dopo un'altra segnalazione che è relativa al caso dell'Alta Savoia, la prefettura. Guarda, dell'Alta Savoia, giusto? No, Di Maio si è svegliato, perché abbiamo risollevato il caso quando il sottosegretario, sì, Scalfarotto ha risposto alle interrogazioni. Lo abbiamo fatto sapere alla stampa, la risposta debole del governo italiano, del tutto insufficiente, e ovviamente grazie ai mass media, grazie alle radio, grazie alle televisioni che hanno cominciato a parlare di questo argomento, e anche a quello che ha suscitato nei cittadini italiani un'attenzione verso la Francia, che insomma non è nuova ad atteggiamenti particolarmente poco eleganti, infatti, nei confronti degli italiani. E allora Di Maio si è svegliato. E dopo 15 mesi fa il primo atto normale che avrebbe fatto un governo qualsiasi che avesse avuto una dignità maggiore. Le volevo chiedere, ma in parte lei ha già risposto, si è soddisfatto di questa risposta del ministro degli esteri, che ha, diciamo, attenzionato le autorità francesi tramite l'ambasciata italiana a Parigi? Guardi, ha dato dopo 15 mesi il primo segno di vita, perdendo 15 mesi. Adesso noi auspichiamo e vigileremo in questo senso che vengano garantiti immediatamente gli interessi del comune di Courmayeur, dei nostri cittadini, delle guide alpine, dei turisti italiani, e che immediatamente si riesca a riunire quella commissione che già si è riunita nel 2015, che aveva già visto prendere impegni dalla Francia di evitare atti unilaterali, e che è stata disattesa dagli stessi francesi, dai comuni di Chamonix e Saint-Gervais, violando quelli che erano gli impegni presi in quella commissione. Noi anche a livello europeo abbiamo scritto alla von der Leyen perché l'Europa in qualche modo vigili su questi atteggiamenti della Francia, che oggi riguardano il Monte Bianco, ieri riguardavano la Giordania francese che ci scaricava, sì, gli immigrati oltre confine a 20 miglia, che riguardano l'accordo di Caen in cui ci hanno derubati di un pezzo di mare, che riguardano la vicenda libica. La Francia ha nei confronti dell'Italia un atteggiamento un po' arrogante, quindi abbiamo necessità che i governi, e anche questo governo sollecitato dalle opposizioni, sollecitato da Fratelli d'Italia, deve far dare una regolata a questa nazione che ha una forza importante, ma che non può essere prevaricatrice nei confronti di interessi nazionali italiani. Ringrazio onorevole Lollobrigida, grazie per essere stato con noi. Così abbiamo anche, diciamo, raccontato questa questione che, insomma, sotto traccia, però come avete sentito adesso è diventata anche un'azione diplomatica del governo italiano nei confronti della Francia per questo confine sul Monte Bianco. 13:31, ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco. Ora è ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite su aruba.it. Effetto giorno. Ecco le notizie di oggi. La seconda ondata preoccupa, ma l'Italia è diversa rispetto a marzo, così Conte nell'informativa sull'emergenza Covid. Da oggi coprifuoco in Lombardia e Campania, da domani anche in Lazio. Didattica solo a distanza alle superiori, Azzolina scrive a Fontana e Lombardia garantire il diritto all'istruzione. Francia e Spagna superano il milione di contagiati, picco anche in Germania. Calcio, stasera italiane di Europa League in campo, giocano Napoli, Roma e Milan. Il punto di Alberto Orioli. C'è un indicatore paradossale ma drammatico di quanto il Covid-19 stia cambiando le nostre vite e la nostra economia. Nel corso degli ultimi mesi la quantità di denaro depositata sui conti correnti è salita dell'8% a 1.680 miliardi, una cifra molto simile al prodotto interno lordo del paese atteso per fine anno. Significa che gli italiani lasciano i loro risparmi sui conti correnti a tassi negativi e di fatto improduttivi, piuttosto che affidarli a investimenti o a consumi. È la paura a bloccare tutto. Il Covid ha creato le condizioni per ibernare domanda e offerta in una stasi economica che non ha uguali. È un fenomeno che vale però per tutta l'Europa, dove il tasso di risparmio è raddoppiato, passando dal 12,5 al 24,6%. Per questo c'è bisogno di fiducia e certo non aiutano le continue incertezze sulle responsabilità di gestione nella prevedibilissima fase 2 dell'epidemia, polemiche tra ministri nel governo, tra governo e regioni, tra le stesse regioni e magari ancora tra regioni e sindaci. La pandemia porta incertezza purtroppo e come insegnano gli economisti l'incertezza è molto peggio del rischio. Il rischio lo calcoli e decidi se affrontarlo o no. L'incertezza resta solo nebbia che avvolge le nostre angosce, come singoli e come popoli, e non si può prevedere. Allora, il ministro dell'Economia Gualtieri ieri a Radio 24 ha detto che l'anticipo per quest'anno del Recovery Fund potrebbe essere addirittura superiore alle aspettative. Molti soldi in arrivo, prestiti e fondo perduto. Si sa ancora poco su come il governo vuole investire questi soldi. Pochi però sanno o ricordano che molte di queste risorse sono state ottenute dall'Europa togliendole dal capitolo degli investimenti già previsti per il cosiddetto Green New Deal, quindi gli investimenti in economia circolare, transizione energetica, nuove tecnologie verdi dovranno essere in questo piano italiano del Recovery Fund fondamentali. E allora noi oggi vogliamo parlarne con una delle voci più autorevoli dell'ambientalismo italiano, Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europe, che è appena uscito in libreria con un libro che si chiama Il Bivio. Benvenuto, ben ritrovato Rossano. Buongiorno, buongiorno Alessio, grazie. E allora, intanto perché un bivio? Perché siamo un bivio? Quale bivio abbiamo di fronte? Beh, io penso che la situazione purtroppo drammaticamente si stia semplificando. La sfida, è banale dirlo, ma insomma va sottolineato, è epocale. Non esiste un piano C, esiste un piano A che è l'inerzia attuale, che ci porta a sbattere. Il Covid è un segnale di come abbiamo, lo dice l'ONU, non lo dico io, abbiamo rescisso i legami con la natura e noi stiamo andando ad altissima velocità contro gli equilibri naturali. E quindi esiste solo un piano B, uscire gradualmente, anche con realismo, il recovery fund, i fondi che l'Europa, meno male che siamo in Europa, mette a disposizione, possono aiutare un cambiamento che ha bisogno di graduale riconversione, perché non si può cambiare tutto e subito, bisogna cambiare gradualmente intanto applicando un exit strategy, venendo fuori da quello che è stato l'inganno dell'economia lineare, dello spreco, della plastica nei mari, avere più equilibrio, più sobrietà, ecco diciamo il senso del bivio, ecco il senso insomma che poi dovrebbe indurci a utilizzare in modo oculato il fiume di soldi che arriverà attraverso il recovery fund. A questo proposito, perché facendo un passo indietro, rifiuti zero, no? È una formula che sentiamo spesso dire, alle sue origini poteva sembrare un obiettivo utopico o anacronistico o solo di carattere simbolico, in realtà nasce in ambito industriale in Giappone come teoria per evitare proprio gli sprechi, costi inutili, ricadute ambientali che hanno a loro volta ancora sprechi e costi. Oggi questa logica dell'economia circolare, Rossano Ercolini, sembra divenuta quasi un must, tutti sono d'accordo, però per arrivarci sono stati fatti dei passi, investimenti in tecnologie, aziende che si occupano del riciclo dei rifiuti, la raccolta, nuovi impianti. Partendo da questa premessa, come investireste oggi la montagna di soldi che stanno per arrivare in Italia su questo fronte? Intanto un ringraziamento a emittenti come la vostra e al vostro gruppo redazionale, perché davvero ha creduto che non fosse così un abbaiare alla luna parlare di rifiuti zero. E io credo oggi noi, in particolare in Italia, che abbiamo povertà di materie prime, ci stiamo accorgendo, come dicevamo anni fa, che nel cassonetto c'è una miniera urbana. Quindi investire sull'economia circolare, cioè sul trasformare quelli che un tempo erano mischiandoli, considerati rifiuti e quindi un costo, che invece separandoli possono essere delle preziosissime risorse. Pensiamo ai metalli, pensiamo alla cellulosa. Noi siamo un paese fortemente manifatturiero, ma non abbiamo le materie prime, le dobbiamo estrarre dai nostri comportamenti. Quindi il Recovery Fund secondo me dovrebbe investire, per esempio, recuperando i metalli preziosi, le terre rare, i metalli preziosi dai nostri rifiuti elettrici e elettronici, dovrebbe favorire il passaggio da produzioni lineari a produzioni diciamo gradualmente circolari. Però, c'è un punto, no, che si dice spesso, ma il mercato, i consumatori, gli italiani nel mondo sono pronti, c'è mercato per questi prodotti derivati da plastiche riciclate, cioè c'è anche una cultura che aiuta eventualmente le aziende a fare questa proposta? Beh, questa è una domanda, è un'osservazione interessante, nel senso che ci sono interventi a costo zero. Il legislatore dovrebbe, il Parlamento dovrebbe favorire il cosiddetto green public procurement, gli acquisti verdi, in modo tale che all'inizio questi nuovi prodotti costano un pochino di più. Però poi gradualmente, lasciando loro una corsia preferenziale attraverso crediti d'imposta, no? Un po' come si sta facendo sul discorso delle ristrutturazioni edilizie per ristrutturare le case secondo il risparmio energetico. Ecco, in questo modo, una volta che è stato messo sul binario giusto, sarà proprio l'inerzia a trovare il percorso giusto. Tra l'altro stiamo lavorando con parecchie aziende che ci vengono a trovare, non è che siamo delle belle anime, siamo, spero, anche delle belle anime, ma siamo anche molto pragmatici. Stiamo lavorando con delle aziende che stanno producendo degli imballaggi in cellulosa che, anziché, pensate a quello della baguette, avere la finestrella che mostra il prodotto in plastica, è in cellulosa o in materiale alternativo interamente riciclabile. E questo è solo un esempio dei tanti che si potrebbero fare e di quelli che poi speriamo di ritrovarci proprio nei negozi presto, più avanti, molto presto. Grazie intanto a Rossano Ercolini, per chi volesse approfondire il bivio in libreria in questi giorni. 13:44, facciamo un salto invece sui campi da gioco, perché stasera si gioca ancora l'Europa, avevamo detto. Saranno giorni di calcio, tanto calcio europeo. Carlo Genta. Ciao Alessio, sì, questa settimana e poi per le prossime due, sempre turni infrasettimanali di Coppa. Ieri sera si è chiuso il primo giro della Champions, 2-2 in casa dell'Inter col Borussia Mönchengladbach. A proposito, spero tu abbia imparato i nomi, perché l'Atalanta invece si è riaccesa sul campo del Midtjylland in Danimarca. Midtjylland, 4-0. Ti seguo. Bravissimo. E oggi nomi semplici, perché Young Boys Roma e Atalanta, beh, questo non è semplicissimo. AZ Alkmaar, squadra olandese, alle 18:55 entrambe le partite. E poi